secondo me si spacca tutto perché c'è il piacere di farlo e perché è gente che ha un malessere. Cioè, questa gente è la gente veramente più debole della società. Io, sinceramente, che cosa avrebbe potuto Senti, succedere? puoi aspettare un secondo? Puoi rimanere in Sì, non onda? c'è problema. Ok, grazie. Pronto? Sì? Sì, non posso stare troppo al telefono, scusa, ma siamo pochissimi noi qua dentro. Quella che sentiamo è Paola, che avevamo sentito prima dall'Information Media Center a Genova, il luogo dove il forum aveva il suo punto operativo. Paola, cosa sta Ci stanno succedendo? assaltando, Come vi sono stanno? arrivati, la strada è in discesa, sono arrivati di botto, dalla discesa ci stanno assaltando, noi siamo due scuole, una di fronte all'altra, nell'altra ci si dorme solo, non noi, altre persone, sono arrivati, stanno sfondando i cancelli, stanno tirando, guarda, è una situazione Paola, indescrivibile e insostenibile. chi è che vi sta assaltando? La polizia, La polizia? sì. È tutta polizia, è arrivata a piedi, di corsa, sbucando dall'angolo, quindi senza neanche un preavviso, nulla. Noi adesso ci stiamo barricando dentro, il problema è l'altra scuola dove ci sono anarchici e squatter e in questo momento li stanno massacrando. Ma quindi questo sta avvenendo nella scuola di fronte a dove E siete nella voi nostra, e perché anche stanno nella tentando di vostra? entrare anche nella nostra. Noi stiamo cercando di sbaraccare tutto, stiamo togliendo tutta la roba. Io vi devo salutare perché comunque dobbiamo essere assolutamente tutti quanti presenti. Siamo pochissimi, stiamo aspettando Vittorio Agnoletto che abbiamo appena chiamato e sta arrivando. Non so, se voi avete numeri di parlamentari di qualcuno, chiamate qualcuno perché noi non siamo in grado di fare tutte le cose insieme. D'accordo, D'accordo? d'accordo, a più tardi. Massimo Ribotti. Per far capire agli ascoltatori che quanto sta avvenendo ora, è passata da poco la mezzanotte, è qualcosa di molto grave ancora. Queste persone ci avevano raccontato di un clima di pressione crescente fuori dalla struttura, una sorta di accerchiamento, macchine che passavano molto velocemente, che sgommavano, che facevano dei caroselli attorno a questa piccola struttura. Avevano in maniera assolutamente responsabile scelto di usare toni sfumati, ma del clima che stava preannunciando questo tipo di evoluzione, noi eravamo informati e avevamo deciso di capirlo bene, pensando che una cosa del genere non poteva verificarsi al termine di una giornata tanto pesante e tanto brutta. Invece è successo pure questo. Quando avremo altre informazioni ve le daremo. E un'intimidazione che avviene a ore e ore dal termine della manifestazione su alcune persone che stanno lavorando anche a raccogliere dati che riguardano questa giornata di Genova e la giornata precedente di Genova. Mezzanotte e 4 minuti, finiamo la nostra discussione. Allora, guarda, uno stato di polizia praticamente questo, cioè anche finita la manifestazione ha ragione Rebotti quando dice un atto di intimidazione, no? Cerchiamo un modo per denunciare questo stato di cose, cioè non lo so, Ti pensiamo insieme a ringrazio. qualcosa. Devo dire che pur avendo parecchi anni, avendo ho avuto la possibilità di partecipare a parecchie manifestazioni, non ho mai visto una cosa del genere, cioè è stata veramente una cosa terrificante, persone anziane, bambini, gente che scappava da tutte le parti, che erano fermi, assolutamente inermi e senza aver fatto nulla. Quindi direi, soprattutto se c'è qualcuno che può andare a cercare di soccorrere i nostri compagni che in questo momento sono a Genova, al Social Forum, perché probabilmente verranno massacrati anche loro per nascondere le prove di quello che è successo. Cioè praticamente che questi cavoli di Black Bloc non sono altro che dei fascisti bastardi, sono gli squadroni, i nuovi squadroni della morte. Quindi io temo moltissimo per la democrazia in Italia. Scusa, ciao. Sono Paccio de Brescia, sono argentino e sono arrivato in dicembre del 76 in Italia, non casualmente, neppure per un cambiamento del clima. Volevo porre solo una domanda molto molto semplice, no? Noi pensiamo che il sistema, quando si sente veramente minacciato, non si difende. A me chiama l'attenzione di tutti questi compagni, amici, onestissimi, con una voglia di fare, eccetera, che non hanno veramente approfondito che cosa è questo sistema e fino a che punto può arrivare. Nella misura che si sente minacciato. È vero, non arriviamo ai campi di concentramento che ci sono stati in Cile e nel stadio, e non arriviamo a avere un garage Olimpo, ma perché? Perché non è necessario. Che pensiamo? Che la polizia chi difende? In che sistema viviamo? quando ti dicono ci ha caricato la polizia, ci ha distrutto, eccetera. È vero. Puoi aspettare un secondo? Sì, attendo quello che vuoi. Ok. Al telefono abbiamo Luisa Morgantini, europarlamentare di Rifondazione Comunista, che si trova all'interno della scuola. Cosa sta succedendo? Guarda, qui è la polizia. Sono entrati, hanno sfondato con le jeep. Adesso stanno arrivando anche i giornalisti perché li abbiamo chiamati, hanno sfondato, sono entrati, hanno messo tutti con le mani contro il muro. E quindi adesso stanno portando via i ragazzi. Adesso sto cercando, scusatemi moltissimo, ma devo andare a trattare. Devo andare a trattare con il capo della polizia perché stanno tirando via i ragazzi. Ci risentiamo allora. Sono l'unica qui dentro. Quindi... Certo, avvicinati pure ai poliziotti. E ci mancherebbe altro che noi teniamo qualcuno al telefono mentre c'è da fare una trattativa, se si può chiamare trattativa del genere. Stanno arrivando dei giornalisti, tra cui i giornalisti di Popolare Network, che testimonieranno, cercheranno di testimoniare quello che sta avvenendo in questa scuola. Non sappiamo il destino del materiale che c'è dentro al centro stampa e per il momento è tutto. È una questione importante, domani dare qualche risposta. So che a Milano e in altre città ci sono stati dei presidi. Io lancio un'idea a compagni e compagne, alla gente che sta sentendo, domani di trovarsi in Duomo a una certa ora. Possiamo utilizzare questo microfono aperto per pensare a dare una risposta, perché non esiste la polizia. Quello che avete detto anche adesso che sta succedendo giù al Genova Social Forum, cioè non è una carica, che è stata una cosa brutale. Questa volta se Fini dice che è stata legittima difesa da parte della polizia, veramente da sputarli in faccia. Non fate più politica, non potete più dissentire, noi siamo i padroni. Questo è il messaggio che è arrivato dal governo. Il problema è che noi dobbiamo porci una domanda fondamentale: come teniamo assieme le persone che oggi erano a Genova, le altre che non sono potute venire, come ci garantiamo gli spazi politici? Io farei un invito affinché nei giorni prossimi ci sia una discussione serrata su queste cose.